asfalto nero taglia il mondo a metà, la città alle tue spalle è l'ultima frontiera della civiltà. Il tuo motore starnutisce un po', si spegne, tu nel panico che farai? Io arrivo in moto dalla polvere, te lo riparo, beve tutto ok. Peccato che non son così, nei problemi meccanici non so distinguere un bullone da una brugola. Come posso fare? Stranissimo, dalla tua sedia sotto di te, gli arti sinceri ti...